Il suo numero fatale mi ha risposto il macellaio, poi il capo dei pompieri, poi un tale che diceva è arrivato zio Pasquale. Quando finalmente la sua voce mi parlò, venne fuori un terzo che ogni cosa rovinò. Pronto, con chi desidera parlare, come se siamo in troppi a conversare. Quel tale ha sbagliato. Non ho figli, non devi arrabbiarti, non sono sposata. Giuro, pronto, non vuoi saperne più di me. Basta, ti manda al diavolo anche te. Amore era solo un contatto, quel tale ha sbagliato. Non ho figli, non devi arrabbiarti, non sono sposata. Giuro.